L'altro cercò di ricordare qualcosa che fosse lontano da quello che stava accadendo. Il vicino lo guardò sorridendo, stranamente disse quello che non pensava. Von Humboldt nell'Orinoco con i suoi primordiali strumenti e von Kleist per i pensieri sulle marionette e gli echi della rivoluzione che lo sfioravano o il disumano grido di Robespierre per la mascella frantumata. Guardava ancora fuori la neve che si accumulava contro la finestra. Di nuovo, dal fondo della sala, l'uomo aprì la porta introducendo Ippolito che appoggiò la mano sul vetro. Il freddo gli sembrò insopportabile e si disperò di non aver potuto dire questo a Raissa. Lo specchio, dietro la tenda dipinta, lo rifletteva proprio come una barriera e un rimbalzo. Non riuscì a guardarsi come riaffermazione o comunque come una propria immagine. Quell'aspetto, sebbene soltanto inverso di una realtà riflessa, gli insinuò sottilmente la sensazione di un luogo della diversità. Allontanandosi, non riuscì più a credere all'indiscutibile oscillazione delle due immagini. Uscendo, spostò le tende e aprì le porte con estrema cautela per non sentirne i rumori. L'orientamento preesistente era ora definitivamente impraticabile. Le inesistenze accennate, le tracce del soggiorno, due corpi, l'appartenenza al segreto, la parola detta per caso, il piatto chiarore, i muri, il silenzio traforato, la voce, la punta che sa ferire, il segno sulle ciglia, il rettangolo gelido, l'attesa dei segni.